si guardare quella tua bellezza con lo sguardo di chi chiede una certezza. Spero una promessa, solo quel dottore punirà con certezza. Occhi, occhi, occhi nella notte, occhi, occhi, occhi di chi soffre, occhi, occhi, occhi per vedere una lunga strada da seguire. Occhi, occhi, occhi senza meta, occhi, occhi, occhi sei profeta, occhi, occhi, occhi senza rime, ti farà sentire più importante. Vedo solo te nel pensiero mio, un dolce fiore sei, prego solo Dio, no, no. Con la tua purezza, mani contro mani, solo tenerezza, voglio si guardare quella tua bellezza, con lo sguardo di chi chiede una certezza. Spero una promessa, solo quel dottore può dire con certezza. Occhi, occhi, occhi nella notte, occhi, occhi, occhi di chi soffre, occhi, occhi, occhi per vedere una lunga strada da seguire. Occhi, occhi, occhi senza meta, occhi, occhi, occhi sei occhi, occhi senza rime, ti farà sentire più importante. Occhi, occhi, occhi nella notte, occhi, occhi, occhi.